Brigido, se sei in ascolto cambio. Brigido, ci sei? CQ, canale 10, c'è qualcuno in ascolto? CQ, canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Certo, Billy, se cambiamo che c'è una signora che è tutta cagata. Ho detto che sembra un po' telefonica, mi non è la tua solita modulazione. Aspetta che vedo una cosa qua, ci chiamo dopo, là. E io sono qui già, c'è uno scappo. Atta lì. Uia. E adesso com'è? Beh, sembra uguale. Non ci capisco bene. Aspetta un attimo. Non mi capisci bene, boh, è strano. Io non ho toccato nulla. Boh, aspetta un attimino. Prova adesso. Adesso è cupa. Un po' cupa, E com'è adesso, Natalì? Adesso va bene. Ok. Va bene, grazie, Natalì. Mi sono messo a posto il microfono. Ok. Ma cos'era, Gianmarì? Come? Cosa aveva? Vorrevo lasciare bene la manopola. Capito. Adesso dovrebbe andare bene, dai. Grazie, Natalì. Non so di che. Va bene. Ci sentiamo alle prossime. Buon proseguimento di giornata, Gianmarì. Ci sentiamo più tardi, al limite, se coincide. D'accordo, ciao. Ciao, ciao. Buona domenica. Tu sei? Luca, tu sei? CQ10, chi era?